Purtroppo noi stiamo chiedendo una verifica capillare attraverso i tamponi proprio per fare una fotografia credibile. Diciamo che adesso i tamponi sono fatti a campione, quindi se ne stanno facendo pochissimi in questo momento di tamponi, e nonostante se ne stiano facendo pochissimi, comunque stanno risultando dei casi che riguardano soprattutto i detenuti. Si parla di una ventina di persone, giusto? Sì, un po' meno o un po' di più. Le notizie che abbiamo raccolto chiaramente sono notizie che provengono dai nostri delegati interni, dagli operatori, e che però hanno trovato anche riscontro poi sulla stampa locale. Però le ripeto, quello che ci preoccupa, per quello che poi abbiamo scritto quella nota, l'abbiamo anche diffusa agli organi, alle agenzie di stampa, quello che ci preoccupa è che questi casi stanno saltando fuori a fronte di una verifica molto parziale. Cioè questi casi non sono dovuti alla risultante di una tracciatura completa della popolazione detenuta. Quindi naturalmente la cosa ci preoccupa, perché se a fronte di pochi tamponi che sono stati effettuati risultano un numero comunque cospicuo di positivi al Covid-19, ovviamente lei si renderà perfettamente conto la preoccupazione. La struttura carceraria ha sufficiente spazio, ad esempio, per gli isolamenti? Questo spazio è previsto e a noi risulta che è stato anche potenziato. Però naturalmente parliamo di uno spazio limitato, di una struttura chiusa. A noi risulta che questo spazio è in via di esaurimento, e quindi ipotizziamo, senza fare le cassandre, però ipotizziamo che sulla scorta di una estensione dei tamponi non saranno sufficienti, sicuramente non saranno sufficienti questi spazi che risultano adibiti a questi casi da trattare. Per cui noi riteniamo che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si porrà un problema di come garantire in un isolamento dovuto a queste persone che eventualmente dovessero risultare positive dai controlli dai tamponi effettuati. Al momento questi spazi ci sono, sono in via di esaurimento e quindi prospettiamo che non ce ne saranno a sufficienza per il futuro. Voi chiedete quindi che vengano effettuati tamponi su tutta la popolazione carceraria? Sì, noi riteniamo, diciamo che siccome si tratta di una struttura chiusa, i tamponi vadano effettuati senza distinzioni, agli operatori ovviamente, ma anche ai detenuti, perché è un sistema, il sistema carcerario è un sistema e non va lasciato nessun soggetto indietro, tutti i presenti devono essere tracciati, in questo caso al contrario di altre sigle sindacali, noi non facciamo preclusioni, non diciamo gli operatori sì, i detenuti no, tutti hanno diritto, diciamo, a conoscere la loro condizione, la loro situazione, soprattutto per evitare che si possano profilare delle situazioni di emergenza più gravi. Il decreto del governo prevedeva, come dire, misure per un alleggerimento del sovraffollamento carcerario. Nel carcere della Dozza stanno funzionando? Noi riteniamo che, ad esempio, la regione si stia comportando piuttosto bene con noi. La regione Emilia-Romagna sta facendo la sua parte, che stia dando, diciamo, un grosso impulso per fare in modo che nei prossimi giorni si possa arrivare a svolgere questo tampone a tutti. E soprattutto si sta impegnando anche a individuare delle residenze esterne alla struttura per eventualmente ospitare e trattare l'isolamento. Detto questo, per quanto riguarda il tema, diciamo, del sovraffollamento, il sovraffollamento è un dato strutturale, ci possono essere delle oscillazioni ovviamente per effetto del coronavirus. È chiaro che in questo momento questo fenomeno si è arrestato, però siccome è di un dato strutturale che parliamo, continua, diciamo, e se possibile si è aggravato, perché a seguito dei disordini che abbiamo registrato circa un mese fa, alcuni locali non sono completamente sfruttabili, utilizzabili, e tanto è vero che la direzione ha provveduto a spostare una parte di questi detenuti in altre strutture, in altre case circondariali. Noi riteniamo, e lo continuiamo a ribadire, anche indipendentemente, diciamo, dai fenomeni di disordine che chiaramente denunciamo, che occorre assolutamente in modo spedito procedere a delle misure alternative, soprattutto a chi ha fine pena bisogna garantire delle misure alternative. Il sovraffollamento va affrontato con delle misure non tampone, ma delle misure che devono prevedere necessariamente delle misure alternative, anche perché se continua a permanere il sovraffollamento non si possono mettere in pratica quella detenzione, diciamo, che l'Europa ci chiede, che è, diciamo, una sorveglianza attiva, cioè nel senso si consente alle persone di avere la possibilità, oltre chiaramente all'ora d'aria, queste cose qua, di avere più spazio a disposizione. Viceversa, se noi dobbiamo fare i conti con il sovraffollamento, non riusciamo neppure a garantire forme più dignitose di detenzione.